15강 어휘 Amica Bambini Biscotto Cappuccino Casa Dizionario Fotografia Giardino Mamma Mela Rosa Signora Signore Amare Comprare Conoscere Dire Incontrare Leggere Mangiare Mettere Offrire Prendere Scrivere Vedere La Ogni giorno Ogni tanto Qualche volta Quanto Spesso Troppo 문형 Legge ogni giorno il Corriere della Sera? Sì, lo leggo. Vede qualche volta Maria? Sì, la vedo qualche volta. Conosce le amiche di Maria? No, non le conosco. Mangia gli spaghetti? Sì, li mangio ogni settimana. Quante mele mangi? Ne mangio due. 대화 Vede questa fotografia? Sì, la vedo. Vede questo signore? Sì, lo vedo. Chi è questo signore? Non lo conosco. Conosce questa signora? No, non la conosco. Conosco solo questi bambini. Qualche volta do dei biscotti ai bambini. Dove li vede? Vado ogni tanto con il mio bambino nel giardino vicino a casa mia. Li vedo spesso là.